Buonasera a tutti quanti gli ascoltatori, bentornati al programma Hardstyle. Questa sera, giovedì 14 maggio, Electroshock presenterà il suo set Hardstyle. Buon ascolto da Radio Live Session.

Allora salutiamo tutti quanti gli ascoltatori che sono connessi questa sera. Hardstyle Electroshock DJ seleziona la musica su Radio Live Session. salutiamo il DJ dello staff Radio Live Session. Ciao Paramix. Salutiamo e ringraziamo ancora tutti quanti gli ascoltatori che sono connessi on streaming su Radio Live Session. Questo è il programma Style Arbadi, DJ Electroshock. Ricordiamo anche Radio Live Session in tour, 23 maggio discoteca La Gare. Ospiti Killer Faber, Zenith, Bismarck, Tony Anatone, El Paris, Gradisca, Vulpis ed Emo. Sabato 23 maggio discoteca La Gare. Motherfucking real. Oh, allora siete sempre in ascolto di Radio Live Session. Questo è il programma Hardstyle Electroshock Mixa on streaming per tutti quanti gli ascoltatori. Vi ricordiamo l'appuntamento per domani sera alle ore 21 col programma elettronico. e vi ricordiamo che siete sempre connessi su Radio Live Session. Questo è il set Art Style che vi offre Electroshock. Baby, I keep on searching. salutiamo Valerio Revolution, Vis, Chicca 91 e tutti quanti gli ascoltatori connessi. Siete sempre in compagnia di Radio Live Session. Kisses back to Africa. They dipped you in a bat at the wacky chocolate factory. Double Dutch Darty take kisses back to Africa. They dipped you in a bat at the wacky chocolate. We'll be right back. e ricordiamo che siete sempre connessi su Radio Live Session, programma Style Arbari. L'appuntamento anche per domenica, il nuovo appuntamento Hard Tech e Hardcore dalle ore 16 alle ore 19. E adesso sempre in compagnia di Radio Live Session, Electroshock. E allora siamo in chiusura su Radio Live Station, questo è il programma Style Hard Body di Electroshock. Vi saluta, vi dà l'appuntamento la prossima volta, noi di Radio Live Station vi aspettiamo domani sera alle ore 21 col programma Elettronico. E questo è l'ultimo disco per Electroshock, un buonanotte da Radio Live Station.